la zampa che non passava un ciacciassa. A campo monde, matinghe quello dubunde, figassa. Gente che passa, sa ferma a catà. A shorte, a mangia, va su a travaggia. Ti pigia macchina o scooter, un treno o l'autobus. Che sempre pin de sueni, a punte de gimus, sta siunghe. Sempre quello per andrung, che poi u dorme sci banchi. Che ne tanti senza lo, che fatica na avanti. Figio se mu stanchi, palanche nughe nechi. Che da fanche i conti con l'aumento della MT. De tasce se mu pin, non se mu guai avari. Devo tempo urci, de segui straordinari. E non importa se non te nasci su tai se porte. A lanterna te illumina, anche saga a luce a smorte. Se sente, quando te lontan da tu si te, so culuri so udita, restan per l'eternità. Devo te qua da na lontana, amici nughe posso sta. Me sento straight, tu cusci tanto che me sento umano. Nughe vago a ca, chi son tutti via Gesù e ni van. A cerca fortuna o largo come nabi, pigia mamma in ti caruggi. Ti curi e ti scuggi e rive cui suoi scuggi. Monti forti come luci in ti me oggi. Racconti de me barba e sei e tutti argilli. Che se va in po' dei gotti attacchemo a canta i trilli. Su sonelli de quelli senese che te ti asciuga. Su sonelli del sueno del paese, non è solo tradizione. Ma che è molto di più, se nate come una sirena. Che a sciorte da umai, e se te ci arriva. Tipo amala, tipo di ala, ma tale stia sempre vicina. Storie dei mainè, dei camagli e dei dinè. Gente parte a per un macanule, ciuto un andere. Gente che vive lontan e mi canto un cuccio forte. Per arriva qua bugia che ad esetta carru forte. A rece che la resta, non ti porta giala. Su ta scorsa drua, te piace ricordala. Sena, a nuva via. Se ti lasci prima o poi, te venia nostalgia. O tu de base co, de vimbunghe de pignè. Vegne fame se ripenso a me non ne sera io. E fisce, o tu de sto che fisce e baccalà. O a me strada, gente a mangia anche un kebab. Che rume sciunti carucci quando è le venerdì. TG senza una meta, due ue, de mattin. Incontri qualche dun, se beva ancun un po'. De volte te dormi, sciuscia sciurbino se peu. Zena non te lascia stare, te costrinza anche a pensà. De volte ti te stufi e ti cominci a ratella. Ma in realtà le usa, cale la normalità. I sei neci su win, allo why a mugugna. Ma tan sempre usciu ben, bunga cattiva sorte. Quando te in disgrazia, quando te anche un ciu forte. Quando tan saluo con grande sentimento. Che saiam perché tan dedico, ma se che penso. Su sonelli de quelli senese che te ti asciuga. Su sonelli del sueno del paese non è solo tradizione. Ma che è molto di più, se nate come una sirena. Che a sciorte da umai e se te ci arriva. Tipo amala, tipo di ala, ma ta restia sempre vicina.